Benvenuto, grazie di essere venute e di essere venuti qui in biblioteca. Come ogni lunedì diamo spazio alle nostre iniziative di promozione alla lettura e di promozione anche dei libri che noi acquistiamo e cataloghiamo e mettiamo a disposizione di tutti voi. Ecco, io non dimentico mai e lo ricordo sempre anche al pubblico che questi libri sono vostri, perché ve li siete pagati e noi cerchiamo di diffonderli, di promuoverli, di fare in modo che le persone li utilizzino e riescano attraverso la lettura anche a scegliersi un percorso e farsi un'opinione, delle idee proprie in merito ai più svariati argomenti. Questa biblioteca offre degli spunti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti locali, la storia locale, ma anche, diciamo, il locale inteso in un senso più generale e anche più ampio dal punto di vista geografico e politico. Ora questa sera, proprio per dimostrare anche l'ampiezza del nostro così concetto di locale, abbiamo invitato e siamo contenti di avere con noi le due autrici del libro che verrà presentato, e so che usano anche uno pseudonimo, insomma è stato un po' ecco, una storia molto intrigante e complessa. Comunque ci sarà con noi Paolo Valente, che accompagna le due autrici, farà da moderatore e da introduzione. Questo perché il romanzo è di ambientazione, è un romanzo ambientato in un'epoca diversa dalla nostra, nel Medioevo, quindi torneremo indietro nel tempo e la vicenda tocca anche il nostro territorio. Ed è interessante conoscere da persone appunto che non vivono qui come sono riuscite a riprodurre certe atmosfere e certi luoghi. Io vi ringrazio, vi invito poi a vedere anche l'invito della prossima settimana, dove invece ci sarà l'incontro del libro, per la presentazione del libro di Silvio Smaniago. Ecco, su Silvio Smaniago, anzi, il primo libro che è uscito recentemente. Grazie a Paolo Valente, grazie alle autrici, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento a tutti voi. Grazie. Bene, buonasera, ben ritrovati a tutti. Dicevo prima, parlando con le due autrici, che la mia copia del libro ha fatto il giro di tutta l'Africa più o meno ultimamente, perché dopo Natale sono stato 2 settimane in Africa occidentale, me l'ero portato dietro perché non si sa mai, magari c'è un po' di tempo per leggerlo, naturalmente non l'ho neanche aperto lì, dopo sì. Però poi ho capito perché, il perché di questo, prego. No. Il motivo di questo viaggio insieme al libro probabilmente è perché il libro parla di un viaggio e quindi il viaggio poi è continuato insieme al protagonista Aimone per altre terre, ma comunque sempre di un viaggio di scoperta si tratta. Per presentare le due autrici do lettura della loro biografia ufficiale. Qualcuno le conosce già, penso. Comunque, perché io ho chiesto a loro dei dati biografici, naturalmente questi sono quelli che mi hanno mandato. Le biografie delle autrici si incrociano a loro insaputa fin dalla più tenera età. Quando il marito dell'una frequenta la scuola materna con l'altra. Il tutto non sfocia in una torbida vicenda, ma semplicemente in regolarissimo matrimonio con figli annessi e connessi. Le due frequentano il liceo scientifico e l'università insieme, ma la loro conoscenza resta piuttosto superficiale. Terminati gli studi si perdono di vista, o meglio Elena si perde nel caldo sole andaluso. E Nicoletta fra le brume mitteleuropee, i ghiacci scandinavi e i venti di rinnovamento dell'ex blocco sovietico. Causa riproduzione sessuata, si ritrovano a un corso preparto, dopodiché riprendono a frequentarsi. Elena pubblica 2 romanzi, Sotto il cielo d'aprile e Le prigioni del verde, Mauro Baroni editore. Nicoletta invece, più prosaica, si dedica all'export e comincia a viaggiare verso la Cina, anche se Germania e Scandinavia restano sempre sullo sfondo. Attualmente Elena collabora con articoli e recensioni alle testate locali e ha da poco pubblicato un 3° romanzo, Il ladro di parole, editore Fernandel. Nicoletta è amministratore della filiale italiana di un'azienda tedesca che produce componenti explosion proof, non so, non chiedetemi cos'è. Scusa, semplicemente servono a non far saltare per aria gli operai quando lavorano nel chimico, ecco. Lo sospettavo. E allo stesso tempo gestisce col marito il pacchetto clienti Lombardia di un ufficio brevetti e marchi torinese. Insieme contano 5 figli di svariate età, di cui qualcuno presente. Alza la mano. Due gatti. No, ci sono. E un cane stravagante. Come si può intuire dagli indizi disseminati, Elena è per formazione ispanista, Nicoletta germanista. Entrambe circumnavigano i 50 anni, hanno detto loro, e seppur stanziali, anagraficamente sono nomadi per destino. Come nomade è il protagonista del nostro libro. Dico solo ancora due parole perché poi loro vorranno leggerci alcuni passi del loro libro e commentarseli, e quindi le lasceremo fare. Questo non gli è giunto. No, l'avevamo concordato per telefono, mi ricordo benissimo. Ecco, una legge e una commenta, no? Non era così. Sì, infatti. Siccome è pieno di colpi di scena il libro, no? Allora giustamente anche la presentazione. Alcuni punti che io ho segnato, alcune realtà non scontate che sono che compaiono in questo libro, sono innanzitutto il cammino, l'idea del cammino alla ricerca di se stessi. L'aspetto non scontato, coi tempi che corrono, è che appunto la ricerca di se stessi presuppone un cammino, vuol dire uno sforzo, un procedere. Poi i confini, siamo in una terra di confine, non possono mancare i confini. Confini di spazio, anche qui presuppone che i confini ci siano, anche se non necessariamente tracciati sulle carte geografiche, e sono sempre confini da superare. Confini di tempo, ci sono diverse epoche che si incrociano in questo romanzo e in qualche modo entrano in comunicazione. Quello che succede in un'epoca dice qualcosa rispetto ad un'altra epoca e magari aiuta anche a comprenderla meglio. In un certo senso sono tempi lontani e che allo stesso tempo sono compresenti. Poi ci sono i confini ideali, se vogliamo, tra fantasia e realtà. Ci sono delle visioni che forse però sono l'aspetto più reale meno visionario del romanzo. Libro. E descrizioni realistiche che invece sono l'aspetto fantastico. Fantastico. Ecco, ma direi che l'interessante anche per noi è che si tratta di un insieme di storie e di persone che si incontrano. Tutte le volte che facciamo riferimento anche alla nostra storia, anche a tutte le discussioni attuali su monumenti, nomi, eccetera, vediamo alla fine che si tratta in ultima analisi di storie che si incontrano, a volte si scontrano, però producono almeno un po' di vivacità e delle idee, stimolano a riflettere sulla propria realtà e sulla strada da intraprendere. È una storia di cavalieri, di relazioni cavalleresche, e quindi dicevamo in altra sede che per questo motivo è abbastanza attuale, no? Visto che sono di moda gli stili e le relazioni cortesi anche a livello istituzionale, e quindi diciamo, probabilmente in parte parla anche dei nostri giorni, no? Almeno riferimento a storia luminosa di tempi bui, penso che sia abbastanza adatta ai giorni che stiamo vivendo. Ecco, detto questo, io darei subito la parola a non so chi delle due. Adesso ci giochiamo, è un amore. No, avrete già programmato tutto, scommetto. Ecco, magari introducete voi, dite voi cosa state leggendo. E no, adesso Elena ci riassume brevemente la storia che, di cui tu hai dato alcuni cenni, ma potrebbe apparire una gran confusione. Prego, signora. Allora, la storia, prima di tutto, è una storia che nasce da una lettura, perché noi siamo due grandi lettrici, questo, prima che scrivere, leggiamo. Quindi nasce da una lettura che è una lettura di area romanza, quindi neolatina poi sostanzialmente, no? Perché parliamo di un componimento del XII secolo, che ci ha dato l'idea di, per il personaggio di questo libro. E finisce invece in area che è più affine alle specializzazioni di Vittoria Nicoletta, che è quella di lingua tedesca. Per cui c'è stato un percorso decisamente così denso da questa partenza fino alla conclusione. La lettura è una lettura che ha fatto Nicoletta, perché Nicoletta è appassionata di testi medievali, quindi è una grande lettrice anche di questo, e un giorno così chiacchierando me ne ha parlato, e la lettura di un componimento poetico di Maria di Francia, che risale al XII secolo, e che ha proprio questo titolo, si intitola Biscravretta, storia di questo cavaliere che subisce una strana metamorfosi. Da qui ci è venuta l'idea di continuare la storia, cioè la nostra storia inizia dove quella di quel componimento poetico finisce. Allora abbiamo immaginato ovviamente un ambiente cortese, cavalleresco, dove si sviluppa e dove si snoda la storia di questo cavaliere, il quale ha un grosso problema, e il problema riguarda se stesso, riguarda la sua personalità, che è una personalità a dir poco stravagante, non solo rispetto al suo tempo, ma rispetto anche ai tempi nostri. E giustamente il cavaliere si interroga sulla sua natura e, come ogni buon cavaliere che si rispetti, medievale che si rispetti, parte all'avventura, cioè parte alla ricerca di una ricomposizione, o quantomeno della scoperta delle motivazioni che stanno sotto a questo suo essere così strano. Chiaramente è una storia medievale che può essere letta benissimo anche in tempi moderni, e infatti non a caso questo nostro cavaliere che sconfina, proprio prima si parlava di confini, effettivamente ci sono confini e sconfinamenti continui, sconfina sia nel tempo, perché proprio perché è un personaggio molto particolare e ha questa capacità di proiettare, questa capacità, gli vengono donate queste visioni, per cui lui va avanti e indietro nel tempo, vede anche le cose nostre, le vede con i suoi occhi di uomo medievale, fa una serie di riflessioni, e nello stesso tempo, mentre si muove nel tempo, si muove anche geograficamente e si muove dal suo castello attraverso un itinerario che è un itinerario di ricerca, nella migliore tradizione cavalleresca, poi è la ricerca dentro di sé alla fine. E spostandosi, quindi ci siamo spostati da questo inizio di area romanza fino alla collocazione geografica della nostra storia in un'area che è invece un'area diversa, e qui entra in gioco la nostra l'area che abbiamo scelto semplicemente per questo, perché a me piacciono molto questi luoghi. Come avete sentito, lavoro in Germania, ho studiato un po' a Monaco di Baviera, quindi sono luoghi che mi sono molto più familiari che non l'area mediterranea dell'Europa. E ho letto parecchi testi medievali provenienti da quest'area, per cui mi era abbastanza facile immaginare le tappe del viaggio, poi la signora al mio fianco che dava un'impostazione, diciamo, letteraria al tutto. Il nostro cavaliere parte dal quello che nella realtà è il castello di Drena, che noi chiamiamo Torre Armata, che è il suo castello, che è presso Trento, e si sposta verso nord fino ad arrivare a Vesobrunn e a Chiemsee, e poi rientra dal Friuli e torna a casa sua. Quest'area l'abbiamo scelta anche per un motivo linguistico, perché ai tempi in cui abbiamo idealmente ambientato la storia, che è un medioevo dilatato, però facevamo riferimento in particolare a un periodo intorno al 980 anno 1000, in questa nella zona di Trento si parlava tedesco e in questa zona invece si parlava molto di più latino, cioè erano invertite le componenti linguistiche rispetto a quello che noi conosciamo, e quindi ci sembrava anche interessante questa mobilità delle lingue, perché non soltanto c'è la mobilità del cavaliere, ma anche il fatto di partire da un'idea che comunque la nostra realtà linguistica non è sempre stata la stessa. Ciò non di meno, un cavaliere deve anche far qualcosa, perché quello che c'è di bello nei romanzi cavallereschi, anche quelli medievali, è che il trisco eroe va, sconfigge i draghi, salva le donzelle e quant'altro. Questo qui non sconfigge i draghi, salva le donzelle, è molto morigerato nei suoi rapporti con le donzelle, infatti è un cavaliere con la C minuscola. E per esempio è convinto che un cavaliere abbia buon gioco con le donzelle quando non così platealmente spiega cosa fa con costoro, perché anche un po' di misura ci vuole anche nei rapporti sociali, ed è la misura, la cifra che determina tutto il suo andare. Durante questo andare incontra un sacco di personaggi femminili soprattutto che lo sostengono, lui dovrà risolvere tre indovinelli come in tutte le favole che penso abbiate sentito da bambini, le tre noci, le tre melograne, i tre indovinelli. Uno di questi indovinelli, e questo è un gioco intertestuale che gettiamo ai lettori, viene dalla scuola di Carlo Magno, cioè da degli alunni di Alcuino da York, che era il più grande intellettuale dell'epoca di Carlo Magno. Due invece li abbiamo inventati noi, dovete scoprire qual è quello vero, autentico, faro faro preso, e non dovete guardare in internet per favore. E ecco, dopodiché oltre ad avere gli indovinelli, lui ha a disposizione delle parole che gli vengono dalle visioni, per questo ci sono le visioni. Le visioni che lo proiettano in mondi futuri, ed è stato per noi un modo per riflettere anche sui nostri usi e costumi, perché, come diceva Elena, il nostro cavaliere è sprovvisto dei nostri strumenti culturali, cioè non sa cosa sia un televisore, non sa cosa sia un computer, non conosce i cavalli vapore e quant'altro, per cui deve utilizzare le cognizioni che ha per interpretare il nostro mondo. Ora dovete, non so se voi siate appassionati di letteratura medievale, non fantasy, ma proprio quella medievale. La letteratura medievale ha una caratteristica stilistica, è molto semplice nella composizione delle frasi e dice delle cose per la prima volta messe sulla carta dopo il crollo dell'impero romano, per cui che sono assolutamente nuove per i medievali, ma che per noi sono vecchie, però le dice con la freschezza di chi per la prima volta fa qualcosa, per cui dicono: bella giornata oggi, ah sì, guarda, gli uccellini cantano, è tornato il cuculo. Cioè ci sono un sacco di frasi così semplici che fanno sorridere a noi, invece quando si leggono all'interno di un testo medievale non fanno sorridere per niente, sono veramente belle, cioè ci regalano una freschezza di linguaggio, una riscoperta del linguaggio semplice che a noi spesso e volentieri manca. Non per questo è un linguaggio banale, tutt'altro, anzi è molto molto preciso sul sentimento, sulla cosa, e noi abbiamo cercato di ricreare questo tipo di linguaggio. Con questo non vi tedio oltre con la teoria e passerei alla pratica, ovvero avevamo scelto quattro letture per darvi un po' l'idea di come si articola il romanzo. Quindi abbiamo una prima lettura, sì, cara, dove il nostro Aimone, che naturalmente è fantastico perché è stato creato da due donne, e quindi abbiamo in mente, e disegnato, questo qui è il disegno di un'altra nostra amica, e quindi ha preso anche forma grazie a un'altra donna, per cui è un vero cavaliere super fantastico, e quindi Elena ci racconta come Aimone, mentre sta andando all'avventura, incontra un altro cavaliere che gli fa da contrappunto, che è un po' diciamo, un conto è la cavalleria e le sue regole, un conto è dire che si fa parte della cavalleria e si seguono le sue regole. Ecco, Aimone, pur non dicendolo, però segue intimamente convinto. E va bene. Allora, i brani che vi proponiamo vogliono essere proprio un esempio anche delle tonalità di linguaggio che sono state usate nel libro. Come diceva Vittoria un momento fa, noi ridiamo perché lei si chiama Nicoletta. Io mi chiamo Nicoletta, tradotto in latino sarebbe Vittoria, no? E siccome Nicoletta Locatelli e Elena Maffioletti messi vicini facevano Franco Angeli editore, cioè storia della transumanza delle lumache, quelle robe lì, allora abbiamo cambiato e io sono diventata Vittoria. Sì, con una certa difficoltà devo dire, perché ogni volta bisogna abituarsi al cambio di nome. Allora, i brani che proponiamo vorrebbero essere dei piccoli esempi di come il linguaggio viene usato all'interno del libro. Quello che diceva lei prima è cifra proprio dello stile del romanzo, nel senso che per creare questo linguaggio, che è un linguaggio apparentemente molto semplice, fatto di frasi molto lineari, che non sono complesse, non hanno le subordinate, eccetera, e comunque anche usando un vocabolario, usando un lessico che è un lessico apparentemente semplice, ma che ha comunque una sua storia, ci è voluto un bel po' di lavoro. Io, che ero quella che meno era dentro ai testi medievali, ho cercato di mettermi alla pari leggendo di tutto e di poveretta. Più. E siamo riuscite, ed è stata, credo, una bella fortuna iniziale, a creare subito all'inizio il passo che ci è sembrato il passo giusto di scrittura, che può piacere o meno, però a noi sembra tutto sommato abbastanza riuscito, insomma noi siamo abbastanza soddisfatti. Io non ti vedo adesso leggo. Allora, Aimone, editore Armata, ha iniziato la sua ricerca e incontra nel folto del bosco quest'altro cavaliere che arriva in senso contrario. Non siamo delle lettrine, portate pazienza se ci impappiniamo, ma insomma, ho sbagliato, infatti ho già sbagliato il... Complimentoni. La pagina che è uguale 38. Scusate, qui avete una dimostrazione pratica di come lavoriamo. Perché io sono un po' più praticone, lei invece è una signora. Dopo nel libro tutto è in ordine, vero? No, non tutte le copie, perché alcuni c'è un puzzle da ricomporre. Mi andavo avvicinando a un piccolo corso d'acqua per abbeverare Excalibur. Quando ecco spuntare da una macchia più intensa di faggi un cavaliere magnifico su una splendida cavalcatura. Alzai la spada in segno di pacifico saluto. Egli cortesemente ricambiò il gesto, poi ingiunse con voce ferma di comando: «Palesatemi ora i vostri maggiori, cavaliere!» «Signore, sono Aimone di Torre Armata, vassallo di Alberico III da Bradabiano, come mostrano le insegne sul drappo del mio buon Excalibur.» Risposi come si conviene, intendendo aggirare intricate questioni di blasonatura. Mi ero infatti avveduto che la corazza indossata dallo sconosciuto, finissima e cesellata d'oro alle giunture, non era tanto da combattimento quanto da parata. Era l'armatura di uno che ha voglia di perdersi in ciance sulla sua nobile schiatta, e io avevo ben altri pensieri per la testa. «Il vostro emblema riporta una pigna che sormonta un ramo di pesco, simboli in vero pacifici», commentò l'altro con un risolino appena trattenuto. Volendo sottrarmi a duelli e altre sciocche perdite di tempo, dissi prudentemente: «Vedo che siete esperto di insegne e ciò vi fa onore». Ma il tentativo di sfuggire a un'oziosa discussione andò a vuoto. «Ben altri onori mi hanno atteso e ancora mi attendono», seguitò quello imperterrito. «Credete forse che sia un erudito che trascorre la vita sui manoscritti senza mai passare all'azione?» «Lungi da me», replicai con convinzione. «Eppure non mi chiedete nemmeno con chi avete l'onore di parlare», mi rifacciò piccato. «Avete ragione, perdonatemi. ero così rapito dalla vostra favella che ho dimenticato le regole elementari dell'educazione. Vogliate cortesemente palesarmi chi voi siete? Vi concedo venia, cavaliere, rispose lo sconosciuto con fare magnanimo, e dopo una pausa intesa a eccitare l'animo alla curiosità, sono Don Inigo de Fortaleza y Uceda, conte della Piana, marchese di Tres Costas, e solo stimo degno viver della propria spada, snocciolò togliendosi l'elmo e chinando il capo nero e zazzeruto. Signore, vi prego, rialzate la fronte, lo invitai imbarazzato, visto che sembrava voler rimanere in quella incomoda posizione sino a che non gli avessi dato licenza. È un vero privilegio fare la vostra conoscenza, continuai, ma vado di fretta, non posso trattenermi oltre. Cavaliere, il vostro sentiero è il mio. Insisto per accompagnarvi almeno un tratto. Si dà il caso che io sia a caccia d'avventure e solitario meni per queste contrade. Potrete godere ancora un poco della mia compagnia. Feci un tentativo disperato. Vi ringrazio, signore, ma la mia è una ricerca che va compiuta in solitudine. Vi prego, riprendete il vostro sentiero. Mille sentieri percorrono i miei piedi, un giorno a oriente, un altro a occidente, portando impresso nel cuore, arroventato al fuoco sacro dell'onore, che cosa voglio e cerco, cosa per me ha valore. Dunque ho deciso, vi accompagno. Pensai che non valesse la pena di farsi infilzare per così poco e mi rassegnai. Presto m'avvidi che il candido cavallo di Inigo de Fortaleza y Uceda, conte della Piana, marchese di Tres Costas, accentuava il passo da trionfo dei lusitani sollevando troppo le ginocchia. Questo mi rincuorò. Entro poche miglia avrebbe ceduto. Allora, bisogna fare qui un piccolo appunto, perché Vittoria è anche l'esperta di cavalli, quindi il passo di trionfo dei lusitani io non me lo sarei mai immaginato, manco so cos'è, cioè lei me l'ha spiegato naturalmente, per cui dal punto di vista dei cavalli c'è anche una competenza tecnica dovuta all'esperienza. Sì, è l'amica veterinaria che mi dà le dritte. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa a questa? Proseguiamo. Proseguiamo con le letture. Ok, allora passi. Ti autointroduci? Sì, mi auto. Allora, nel libro noi abbiamo usato moltissimo il gioco intertestuale. Abbiamo preso, cioè, delle citazioni notissime e le abbiamo buttate nel libro, un po' rimanipolate e così via. In alcuni punti ci si accorge, perché se uno conosce non so, una poesia sente, ecco, lo stesso verso. Per i testi medievali veri e propri, che sono forse meno noti, non è così immediato il riconoscimento. E il testo che abbiamo scelto adesso è una parte, diciamo, più dove irrompe il fiabesco. Quando in questo libro irrompono il fiabesco o il fantastico è perché sono stilemi della scrittura medievale, non perché noi volevamo in realtà fare un fantasy. E qui abbiamo provato a inserire un testo medievale rielaborandolo un pochino e vediamo cosa succede. Aimone sta proseguendo per la sua strada e a un certo punto incontra due fanciulle. Così, seguendo il ruscello, ragionavo, quando giunsi dove il sentiero si faceva più angusto a causa di due grosse pietre poste l'una di fronte all'altra, quasi a disegnare una porta naturale. Su ciascun masso sedeva una fanciulla. Esse discutevano piuttosto animatamente. Damigelle, disse parando il cavallo dinanzi a loro, perdonate se interrompo la vostra disputa, ma vorrei passare. Cavaliere, replicò quella di sinistra dalla capigliatura folta e sciolta, il mio nome è Fillide e costei è mia cugina Flora, e con la bella mano indicò la sua compagna che portava la chioma regalmente acconciata. Da parecchio siamo qui sedute senza riuscire a venire a capo della nostra altercazio. Vorreste aiutarci? Mi interrogò Fillide vezzosa. mi parvero creature così soavemente simili a ninfe che non potei rifiutare. Smontai da cavallo e all'ombra fresca di un grande pino mi disposi ad ascoltarle. «Ecco», cominciò Flora, «siamo entrambe innamorate, io prediligo un chierico e mia cugina un cavaliere». «Damigelle, anch'io sono un cavaliere, se per la disputa dovreste decidere chi fra loro sia più degno d'amore, non credo di poter essere giudice imparziale». «Oh sì, invece, lo sarete», esclamò Fide, «sarete fedeli al codice d'onore». «Anch'io voglio fidarmi della vostra lealtà», sorrise Flora. «Allora accetto volentieri, vi prego spiegatemi». «Io amo un chierico», cominciò Flora. «Egli è un uomo incantevole, il suo animo bellissimo, tutto si irradia sul volto e sulle membra. È un colto poeta che si esprime con grande gentilezza. Amo un epicuro, un vero crapulone», la interruppe Filide. «Assenti un po', e quel rozzo fantoccio buono solo a saltare su e giù da una sella?» sibilò Flora di rimando. «Damigelle, vi prego, non sono questi i modi che si addicono a cortesi fanciulli quali voi siete». «Le due si ricomposero», riprese Filide. «Io amo un cavaliere valoroso e parco che vive e si accontenta dello stretto necessario. Di pure che ti sei invaghita di un pezzente», si intromise nuovamente Flora. E rivolgendosi a me, «il mio amato vive nell'agio e ciò gli permette di dedicarsi assiduamente alle questioni di amore. Mia cugina, al contrario, ha per amico un poveretto che a stento riesce a mantenere sé e la sua cavalcatura. Egli mi pensa senza sosta, in pace o in guerra che sia», gridò Filide sdegnata. «Ah, cara, il tuo innamorato non è mosso dall'amore, ma dalla necessità. Il mio chierico, invece, agisce solo quando amore comanda». Cominciai a temere che l'altercazio si protraesse per giorni, e io non volevo fermarmi troppo a lungo. Era pur vero che non avevo una meta da raggiungere, ma una ricerca da compiere. Ciò non di meno, la segreta speranza di ritrovare Raksha a Torre Armata mi faceva desiderare di concluderla in fretta. «Madonne», intervenni allora, «tutti noi sappiamo che esistono due modi per intendere la vita. Come per ogni Lia c'è sempre stata una Rachele, così per ogni cavaliere sempre ci sarà un chierico. Del cavaliere ameremo il prode che in lui alberga, del chierico la raffinatezza di pensiero che guida le sue scelte. Non è dunque il caso di giungere a un diverbio. Siate felici di avere un'amica e non una rivale in amore, che Filide sempre amerà il cavaliere e mai concupirà il chierico, e Flora, a sua volta, il chierico nel cuore porterà e mai un cavaliere desidererà». Le fanciulle avevano sospeso la baruffa e mi osservavano a bocca aperta. Una risata sgorgò alla fine dalle candide gole. Balzarono in piedi e mi abbracciarono. «Cavaliere», dichiarò Flora, «bene abbiamo fatto a eleggervi giudice della nostra contesa. Non solo ci avete restituito la gioia di amare i nostri amanti, ma avete riportato l'una all'altra l'amica perduta». Tutto questo dialogo di Filide e Flora è un Carmina Burana, è tratto dai famosi Carmina Burana che sono stati trovati a Benedikt Boyern in Baviera, ed erano i canti dei Goliardi del XIII-XIV secolo. È uno di quelli meno noti perché tratta appunto della disputa fra se sia più degno d'amore il cavaliere o il chierico sarebbe stato l'intellettuale del tempo. Oltre a quello c'è anche un brano della Divina Commedia, che è quello di Lia e Rachele, che è tratto dall'Inferno, in questo momento non mi ricordo che numero di canto, comunque c'è Dante che paragona la vita contemplativa e la vita attiva, attiva e contemplativa, che nel Nuovo Testamento sono Marta e Maria, e hanno come sempre un corrispettivo nell'Antico Testamento, che sono Lia e Rachele. Io credo che se non ve l'avessi detto non ve ne sareste, a meno che vabbè, pregresse conoscenze, non ve ne sareste accorti, e questo è stato il grosso lavoro che abbiamo fatto insieme per rendere verosimile il racconto, cioè nel nostro romanzo i personaggi non sono appiccicati su un fondale medievale, ma veramente abbiamo cercato di farli agire e pensare come gli uomini del tempo. Anche perché il romanzo è narrato in prima persona ed è narrato dal cavaliere Aimone, quindi che torna indietro e riprende la storia dall'inizio, e di conseguenza, essendo narrato in prima persona, non andava semplicemente collocato il cavaliere, ma bisognava dare veramente un corpo medievale, ma anche uno spirito medievale. Questa era un po' la grande sfida di questo romanzo, perché romanzi ambientati nel Medioevo ce ne sono tanti. Ecco, abbiamo proprio cercato di pensare con Aimone e di guardare la realtà con Aimone, tenendo conto di tutto ciò che Aimone tutto ciò che agiva dentro il suo contesto culturale, sociale, storico, eccetera. Quindi è nato questo personaggio che però si misura, come dicevamo prima, anche con il nostro tempo, e questo è stato veramente un gioco che è nato strada facendo, che è il gioco delle visioni, poi magari ne leggiamo una piccolina. Le visioni sono un po' una scommessa anche con il lettore, perché il lettore troverà le visioni, nelle visioni non si dice esplicitamente dove si trova il cavaliere, il gioco è quello di indovinarlo, e alcune sono veramente molto divertenti, anche perché si ritrova in luoghi e situazioni che ci sono familiari. Adesso quello che leggo io invece non c'entra niente con quello che stavo dicendo. La terza lettura che abbiamo scelto quattro letture, quindi non preoccupatevi, siamo quasi al fine. E la terza lettura è una lettura, finora abbiamo fatto dei dialoghi, una lettura descrittiva, ed è la descrizione dell'inverno e delle montagne da queste parti o appena passato il Brennero. Sì, esatto, la scelta della lettura è un omaggio al luogo. Allora, Aimone si trova a passare le montagne durante l'inverno, quindi un momento veramente molto critico del suo viaggio, che è diventato un viaggio al limite della sopravvivenza. In questo momento Aimone è accompagnato dal suo lupo, poi si è raccattato per strada. Questo lupo si chiama Romolo, è un lupo che lui ha chiamato Romolo per motivi che poi, leggendo il libro, diventano evidenti. Quindi immaginatevi il cavaliere che affronta il paesaggio, affronta il territorio montano con il suo Excalibur e il lupo che cammina. Ecco, una cosa, scusa, su Excalibur, i nomi nel libro sono tutti motivati. Cioè, a ogni personaggio ha un nome, ogni animale ha un nome, e questo nome, se voi andate a vedere l'etimologia, ci dice già molto del personaggio. Excalibur si chiama così perché, essendo Aimone piuttosto ironico, vuole fare il verso a quelli che danno il nome alla spada, fra cui Excalibur, per cui lui dice, tutti dicevano questo che si chiama gioiosa, mo t'ammazzo, ti mozzo il braccio, e Excalibur, e io chiamo il mio cavallo Excalibur, anche perché nel latino medievale il cavallo non si dice Ecus ma Cabalus, quindi Excalibur. Comunque tutto spiegato alla fine, no? C'è un glossarietto in cui tutte queste cose sono spiegate. Le miti stagioni avevano ceduto il passo al crapulone inverno, ma io non avevo una casa dove rintanarmi nel calore del fuoco e degli affetti, a consumare le cibarie ammassate durante la prospera estate e il glorioso autunno. Un gelo tagliente ci avvolgeva. Procedevo a piedi per riscaldarmi e per far riposare Excalibur. La nostra corta colonna avanzava sempre più curva sotto il peso del vento sferzante. D'un tratto esso si placò e fummo circondati da un silenzio rotto dai rami che si schiantavano sotto la neve, dal gemito del ghiaccio che frantumava le cortecce e dal grido aguzzo della ghiandaia. Il paesaggio era d'un algido bianco, sovrastato da un cielo verde opaco, livido, pur essendo l'aria ammantata di una diffusa luminescenza che feriva l'occhio. Ben presto nubi grigie e grevi chiusero alla vista le cime dei monti. Fiocchi sottili e duri presero a vorticare. Dal nulla, abrupti fantasmi, emergevano le enormi pareti silenti, cupe e scoscese, dove la betaia cedeva alla roccia. Puntuti, immacolati pinnacoli e ripidissime balze facevano da sentinella agli aspri, inaccessibili valichi pietrosi. L'animo si scorava di fronte a quella vastità, ma intravedendo dietro la curva un sentiero proseguire lungo il fiume e non già inerpicarsi, con gratitudine prendeva nuova forza. Il gelo strinse le fauci, la neve lasciò il posto a un alito ghiaccio e cristallino che intorpidiva il viso. Il corso d'acqua giaceva al bordo della pista, le rive disegnate da tondi rigonfiamenti nevosi. L'acqua densa, oscura e uniforme fluiva lenta, prigioniera del freddo, solo increspandosi dove una lingua candida opponeva resistenza. Inutilmente cercai con lo sguardo un luogo adatto per porre il campo, mentre la luce si affievoliva nel grigiore che annuncia il crepuscolo invernale. Mi avvicinai a una macchia di betulle, spoglie e tetre. Sentivo il gelo penetrarmi il corpo e impossessarsi del mio sangue. Temevo l'insensibilità che precede l'assideramento. La cervelliera non riusciva ad arginare il freddo che mi stringeva il capo come una tenaglia. Presi a scavare nella neve dura e ghiaccia una buca che mi fosse di ricovero per la notte. Strappai qualche ciuffo d'erba misera e secca per rifocillare la mia povera cavalcatura e asciugare il sudore che avrebbe potuto causarle una febbre. Tagliai alcuni rami, ma erano bagnati e mal si prestavano ad accendere un falò. Incisi pertanto la corteccia per il lungo, facendo in modo che si sollevasse un poco in strisce. Non solo queste avrebbero evitato al calore di estinguersi lambendo il legno umido, ma anzi, bruciandole per prime, le fiamme avrebbero avuto il tempo di asciugare un poco la polpa del ramo per poi permettere al fuoco di divorarlo. Alimentai le scintille con quelle poche stoppie fino a quando una fiammella si alzò miracolosamente. Avvolsi Excalibur nella coperta e nel mantello di riserva che portavo con me. Con la neve eressi una specie di muraglia che foderai con rami ed erba perché fosse di riparo al Murgese. Senza cessare di alimentare il fuoco, distesi arco, spada e altri rami sopra la buca, coprendo il tutto con la neve in modo da farne un tetto. Infine, esausto, scivolai in quella angusta tana dove giacqui abbracciato a Romolo nella speranza che il reciproco calore ci preservasse dalla gelida notte. Fui destato dallo sbruffo improvviso di Excalibur. Mi affacciai nell'aria pungente. Era una bella giornata d'inverno e noi eravamo sopravvissuti. Le gazze intrecciavano eleganti danze nel cielo e il fiume si intiepidiva ai raggi del sole. Liberai arco e spada dalla stretta del ghiaccio e in una pozza d'acqua limpidissima trafissi alcune forelle. Le feci arrostire e mi parve il cibo migliore che avessi mai consumato. Il sonno profondo mi aveva ritemprato. Ringraziai di cuore il rune che tante sagge cose sulla neve mi aveva insegnato. Attesi Romolo uscito per una magra caccia, quindi riprendemmo il cammino lungo la vasta valle che i raggi del sole facevano scintillare come un manto di diamanti. Le montagne si offrivano ora in tutta la loro magnificenza. Non più minacciose, ci facevano da scorta sorprendendoci con immagini ammalianti, arabeschi di cascate ghiacciate, falchi pescatori lanciati a dardo sulla preda, luminose vette dentate dove saltava il camoscio ed echeggiava la valanga, volo solenne d'aquila disteso in tarde ruote. La gioia che la notte precedente sembrava avermi abbandonato finalmente tornava ad abbracciare il mio animo. E questa è. Vuoi fare il corrispondente? Vuoi. No, anche qui abbiamo un piccolo gioco intertestuale che è con Carducci questa volta, dove salta il camoscio e ecco. Sì, è stato che... molto mascherato per non rendere troppo. No, è perché. Sì, Piemonte, sì. C'eravamo abbastanza affezionati perché era una delle classiche poesie che studiavamo alle elementari. Per il più io ho un nonno toscano che ce la recitava. Sì, aveva questa mania di Carducci, ci recitava ogni tanto Carducci tutti i nipoti, via, ma lui insisteva, poveretto. Oltre a questo abbiamo anche il discorso della gioia. Aimone è un tipo sicuramente non incline alla depressione, piuttosto allegro, abbastanza così, insomma, felice di stare al mondo, la canna del gas non è nei suoi pensieri, però tutto questo perché ha anche un'intima gioia, proprio intesa come dono dello Spirito Santo, e la gioia è un altro dei temi della cavalleria, cioè i cavalieri in qualche modo erano tenuti ad avere la gioia e la misura li aiutava in questo loro percorso. Inoltre, ecco, per scrivere questo passo ci siamo ispirati, oltre che all'esperienza vita vissuta nel Tirolo, anche a un famosissimo quadro di Bruegel che si trova al Kunsthistorisches Museum di Vienna, che si chiama I cacciatori al ritorno nell'inverno. E se lo vedete c'è proprio questo cielo livido sul verde. Lo conosce, signora? Siccome Bruegel è un'altra delle nostre passioni, quindi avevamo preso lui come riferimento. E basta, non avrei altro da aggiungere qui. Cosa facciamo? Non so. No, abbiamo ancora il quarto, no? Allora, l'ultima lettura, poi non vi tediamo oltre, è una visione che di quelle che all'improvviso prendono il nostro povero Aimone, mentre sta facendo qualcosa di normalissimo, non è che si presentino in maniera eclatante, lui non so, sta pulendo i pesci, ecco, nel brano prima c'era le forelle, ogni tanto ci sono i false friends, perché lui essendo un parlante metà latino, metà tedesco, ogni tanto si confonde con i nomi, quelli che gli suonano latini li usa e viceversa. Ecco, quindi queste, come abbiamo detto, le visioni servono al lettore e a noi per farci riflettere un po' sui nostri modi di vivere, a lui per trovare delle parole che poi dovrà utilizzare o per risolvere gli indovinelli o per integrarli, e sono visioni che si presentano così nei momenti più disparati e lui ci si trova dentro come se stesse vivendo, però non è visibile e non è sensibile agli altri. Scusa un attimo solo, questa sì. Tra tutte le visioni è penso la più esplicita, sì. Nel senso che è anche quella meno complessa, è anche quella più corta, per quello che abbiamo scelto, non, nella campionatura abbiamo scelto questa per questo motivo. Parsifal, l'unico, come lo trovi? Non ci sono parole. Scusa se te lo chiedo, ma tu quando... Ah, guarda, beh, non ce n'è altri, nessuno uguale, bianco, che più bianco non lo immagini, una morbidezza, l'angoretta ti rimane un batuffolo. E il Perlasol? Non c'è paragone, assolutamente, provalo, poi mi dici. L'accenno al cavaliere Parsifal aveva acceso la mia curiosità. Volevo sapere che cosa era rimasto di lui nella memoria degli uomini, dato che ero ormai certo di vagare ad ogni visione in un mondo futuro. Le due dame mi sembravano veramente manchevoli di cortesia nei confronti di un cavaliere tanto nobile. Ne parlavano come le serve di Torre Armata parlavano della liscivia. Era la conversazione più strana che avessi mai udito. Le due donne, già piuttosto avanti negli anni a giudicare dalla canuta chioma, assaggiavano spizzicando qua e là varie cibarie esposte sui banchi della piazza. «No, grazie, sono una fettina. Sa il colesterolo?» diceva una al beccaio che le offriva una salsiccia. «Mi dà quel pezzetto di dolce?» chiedeva l'altra al fornaio. «Il più piccolo? Cosa vuole? La diabete?» Non capivo bene che cosa dicessero, ma il tono mi divertiva oltremodo. Decisi pertanto di trattenermi nella piazza, alla cui estremità era montata una di quelle gogne o palchi che sembravano piacere assai agli abitatori di quel tempo. Mi soffermai a lungo davanti a un carretto che recava la scritta «Gelati». Li avevo già intravisti in una precedente visione e mi attiravano moltissimo. Avrei dato volentieri un bel paio di polli in cambio di uno di quei coni pieni di crema morbida e colorata. I gelati sono davvero notevoli e su di essi si dovrebbe scrivere qualche trattato, perché oltre al manifesto piacere che procurano al palato, fungono anche da pronubi. Mi avvidi infatti che diversi giovanotti si accostavano al carretto con la fanciulla amata. Ogni volta che quella sceglieva i gusti, il giovane diceva «Lo stesso per me», pagava qualche denaro al compiaciuto bottegaio, quindi, senza parere, allungava il braccio sulle spalle della donzella, la quale, persa la naturale ritrosia, lo lasciava fare. Gustando la meravigliosa crema, se ne andavano veleggiando verso ignoti oceani, da cui il resto del mondo era completamente escluso. Poi va avanti, però. E quindi, vi svegliamo che noi amiamo i gelati. E quindi, no, niente, era per darvi semplicemente un'idea, per esempio il fatto che lui confonde il Parsifal, che è il nome di un detersivo, è diventato il nome di un detersivo, no? E spesso e volentieri ci sono queste cose, questa riflessione sulla storia, dove Aimone, con l'occhio così ingenuo di chi quella storia sta vivendo, sente parlare del suo tempo e lo interpreta secondo i canoni suoi propri, per cui non capisce come mai, per esempio, non capisce come mai la gente, non lo so, si scanni per della mercanzia, dice, ma insomma, a casa mia queste cose si dicevano e si facevano solo per i migliori campioni, qua stiamo parlando di un pezzo di formaggio, non so, cose di questo genere. E questa, niente, la funzione delle, non credo ci sia molto da aggiungere su questa. Naturalmente nel romanzo c'è anche una storia d'amore, per quanto stravagante. Stravagante, ma che Paolo ha subito visto, perché allora noi abbiamo dato vita a un personaggio femminile che di fatto nelle pagine del romanzo ci sta pochissimo, perché lo si vede all'inizio e alla fine. È il classico amore da lontano, quindi in tema perfetto anche questo. Eppure abbiamo scoperto che piace moltissimo agli uomini, perché no? Abbiamo tutti i lettori che ci dicono, ma che fine fa questa qui, ma allora cosa adesso? Cioè vorrebbero che gli raccontassimo poi quando diventa madre, moglie, non so, che ci inventassimo che ne fa chissà cosa, ma... Quindi quello sarà la seconda parte del romanzo. Diventerà il personaggio principale, perché hai visto il successo che ha avuto. Comunque, nel romanzo ci sono diversi personaggi femminili, di cui Raksha è l'indovina, che è poi colei che sprona Aimone a intraprendere questa ricerca, è il riferimento ideale per Aimone durante il suo viaggio, è l'amore da lontano, appunto. E quindi guida un po' sia il suo viaggio sia la sua idea di ritorno, no? Si ritorna al cancello, al castello, sperando di ritrovarvi Raksha, anche se Raksha è una girovaga, quindi in teoria non dovrebbe più stare lì, poi alla fine si vedrà che tutto si ricompone. Ci sono comunque nel romanzo diverse figure femminili che in qualche maniera scandiscono diverse tappe del percorso di Aimone. Io, se abbiamo tempo, gli leggerei Pelle d'asino, cosa dici? Pezzettino. Sentiamo, sentite, visto che siete pochi, volete sentirvi un'altra storiella o no? Sì, poi no, ma potete, diciamo, scusa, potete anche dirvi no, abbiamo anche poi l'occasione magari di fare qualche domanda, sì. Così. No, ma dico qualcosa io, perché sennò mi metto nel pubblico e basta. Allora, no, siccome mi hanno tirato in ballo a proposito di Raksha. Abbiamo fatto una disquisizione di 2 ore. Arrivederla. A me piaceva l'idea, cioè naturalmente io me la sono immaginata, eccetera, non voi l'avete descritta, mi piaceva l'idea di questo viaggio che, sì, uno parte alla ricerca di se stesso, è un po', in un certo senso, in certi periodi anche nel nostro, per c'è una certa categoria di persone quasi di moda, no? Andare a cercarsi chissà dove, ma rimane una cosa un po' teorica, no? Senza una meta precisa, senza neanche volere una meta e senza neanche in qualche modo gustare il cammino, gustare la strada. A me piaceva l'immagine di questo che si va a cercare se stesso, ma vuole ritornare da una persona in carne e ossa, no? Cioè ha come riferimento, come meta, una persona concreta con cui è entrato in relazione, no? Questo penso che sia importante per ogni cammino, no? Non andare dietro a qualche idea vaga e teorica, ma avere in mente delle persone concrete, no? Che possono essere qui, possono essere lì che ci aspettano, possono accompagnare, eccetera, però sono delle persone. Questo penso che dia un senso della realtà e anche della responsabilità che è importante, no? Per questo mi piaceva la figura poi. Sarà no, stata anche una bella noi ragazza. Non perché era una bella ragazza, allora perché Raksha è il nome in sanscrito vuol dire la protettrice ed è stato preso dal libro della giungla, è la lupa che alleva Mowgli, la mamma lupa, quella che addirittura fa scappare Shere Khan la tigre pur di difendere i suoi cuccioli. E quindi lì, secondo me, tutti gli uomini ci hanno riconosciuto un po' questo affetto materno di Raksha, che comunque poi è una che non rompe le scatole, che ti dice: guarda caro, sei bellissimo, abbiamo pure una storia da weekend, ma io non sono la donna che fa per te, quindi vai pure libero e giocondo, fai quello che devi fare. Cioè, una che ti dice così sinceramente è una donna ideale, però è fedelissima, e quando lui torna, infatti, lei è lì puntualmente che lo aspetta. E quindi, per di più, è belloccia, anche lui è fedelissimo, che è fedelissimo, perché porta in sé due nature, e una di queste due nature lo fa essere super fedelissimo. Sì, diciamo che è un'indovina che però sbaglia l'unica previsione, che è quella che la riguarda direttamente, no? Se non sbaglio. Era vero, via, se non giocava alla lotto. Quando si è parte in causa si può sì, è vero, ecco, fare delle previsioni su se stessi è dura, forse è molto difficile, sì. E poi lei non forse lo fa anche per spronarlo a andare, non lo sappiamo perché compare talmente poco, perché stavo parlando di questo, c'è la figura femminile, insomma, sì, quindi sì, ti accompagnano. Vogliamo leggere? Sappiamo tutto. Ma non so se vogliamo dire qualcosa sulla figura di Aimone, che viene anche questo preso un po' dalla tradizione, sì, da una tradizione letteraria. Come? Sì, esatto. Questo nome Sabaldo. Perché c'è Aimone il Pacifico nel XIII secolo, che era questo molto diverso dagli attuali rappresentanti di Casa Savoia. Perché poi c'è stato Aimone di Croazia nel 38, nel 39, che Mussolini ha preso un ramo cadetto e l'ha fatto diventare re di Croazia, che poi non è mai da. Ecco, ma Aimone il Pacifico, è detto il Pacifico perché lui era, in realtà voleva diventare un frate, invece un abate, una cosa del genere. Invece per le sue capacità di diplomatico, adesso mi sembra che uno dei re di Francia, anche se la Francia non era costituita come era costituita adesso, comunque il re di Francia, non mi ricordo più chi fosse, lo chiama in suo aiuto a livello proprio diplomatico. Lui si trova invischiato in questa storia qui, riesce a non far scoppiare diverse faide, guerre e tutto, si sposa, perché a questo punto lui si trova a dover gestire il suo regno, che diventa una specie di ago della bilancia degli equilibri, della pace dei regni intorno al suo. Ha dei figli, ha una vita felicissima. Come carattere direi di sì, c'era proprio simpatico. E poi niente, ed è ricordato perché lui accoglieva le richieste del popolo, era uno dei pochi che ascoltava e dirimeva proprio queste cose qui tra la nobiltà e il popolo. E allora per questo, e poi perché inizia con il primo personaggio che compare. La seconda B, Beatrice. Sì. Non so se, se qualcun altro ha qualche interrogativo, altrimenti tutte le risposte le trovate qua dentro. Signore, Va bene. Va bene così.